Allora, buonasera a tutte e a tutti. Ci scusiamo nuovamente per l'assenza di Marta, perché questa sarebbe dovuta essere una discussione a tre, diciamo, no? Sulla questione della narrativa working class, partendo dai due libri, 108 metri di Alberto, e Non è lavoro e sfruttamento di Marta. Marta ha avuto un imprevisto con l'aereo e quindi non è riuscita ad arrivare. Però cercheremo in qualche modo di fare nelle veci, magari Alberto dirà qualcosa anche su quel libro. Allora, narrativa working class, perché l'importanza di fare una discussione, una tavola rotonda su questa questione? Innanzitutto voglio partire dai due termini che compongono questa locuzione: narrativa da una parte e working class dall'altra. Working class, cioè la classe lavoratrice, nei tuoi libri, Alberto, tu cerchi di un po' ricostruire non solo una genealogia della storia della classe lavoratrice da un punto di vista narrativo e non semplicemente storico-sociologico, ma cerchi anche di smontare tramite i tuoi strumenti, cioè la penna da scrittore, tutta una serie di retoriche che si sono avute negli ultimi decenni, a partire per esempio dall'ondata neoliberista, dalle riforme di Margaret Thatcher, Ronald Reagan, eccetera, che da un lato hanno distrutto tutte le conquiste della working class storicamente intesa, quella più facilmente riconoscibile, dall'altro, attraverso la grande illusione della società della conoscenza, hanno creato questa illusione per cui, no, in un capitalismo 2.0, diciamo così, saremmo stati tutti quanti lavoratori della cultura, lavoratori intellettuali, non avremmo più dovuto sporcarci le mani di grasso e impugnare attrezzi, ma avremmo potuto fare lavori intellettuali, culturali, e anche con lo studio, con l'educazione, avremmo potuto ambire un'ascesa sociale. Allora, noi abbiamo davanti ai nostri occhi una condizione socio-economica che smentisce palesemente tutte queste narrazioni tossiche, chiamiamole così, che ci sono state raccontate. E qui arrivo al secondo elemento della locuzione narrativa working class, cioè la narrativa. Tu, da un lato, con questo lavoro di ricerca che stai facendo su questo concetto di narrativa working class, cerchi di ricostruire una genealogia di quella che non è una corrente letteraria, non è un movimento, ma è una tendenza che tu stai individuando in tantissimi scrittori che appartengono alla working class per discendenza familiare o per appartenenza diretta, perché sono figli di operai, perché sono stati operai essi stessi, perché magari sono precari della cultura ma campano con lavoretti e hanno fatto di tutto. E dall'altro lato elabori anche tutta una serie di strumenti narrativi nei tuoi libri per raccontare tutta questa questione della working class. Di qui l'importanza, mi collego con questo anche al libro di Marta, così teniamo dentro anche lei, l'importanza della questione del racconto, del raccontare. Anche il libro di Marta, che è un saggio più propriamente inteso, che da un punto di vista sociologico ed economico smonta quanto dicevo prima sulla questione del mondo del lavoro oggi, delle nuove forme di lavoro, i mini jobs, le riforme come i Jobs Act, però lo fa partendo ogni volta da dei casi tra virgolette esemplari, diciamo così, cioè racconta delle storie di precari attraverso le quali poi dopo decostruisce tutte le riforme del lavoro, le retoriche di Renzi, di Poletti, del mercato del lavoro che stiamo vivendo. Allora, la prima domanda molto semplice, molto generale che ti faccio è quindi: come mai questa importanza dell'aspetto del raccontare per smontare, come diciamo spesso, con ogni mezzo necessario, queste narrazioni, e il legame tra una genealogia working class e un bisogno anche di raccontarsi e autorappresentarsi, parlare anche dall'interno di sé, di se stessi, della classe lavoratrice, per ricostruire un'identità e anche partecipare a delle lotte? Poi? Cioè, le domande sono tante. Allora, io intanto inizio ripensando a proprio un anno fa. Cercavamo di dare delle risposte qui, in questo stesso posto, con alcuni amici e compagni, sul senso di fare una narrativa e raccontasse l'esperienza del lavoro dal punto di vista di chi sta subalterno, di chi il lavoro lo subisce, di chi non ha prospettive di decisione sulle scelte che ogni volta fa, ogni giorno quando suona la sveglia bisogna uscire di casa e andare a conquistarsi un salario, ecco. E il problema grosso che noi abbiamo, soprattutto in Italia, è che non abbiamo, abbiamo avuto una narrativa del lavoro, però non faticavamo a riconoscere l'aspetto della soggettività, cioè la soggettività è i lavoratori, ecco. Il punto di vista della classe è già un passaggio diverso. In Inghilterra c'è sempre stata una tradizione fortissima di narrativa working class, perché la rivoluzione industriale aveva creato la working class più forte e organizzata del pianeta secoli fa, e questa classe operaia si è scontrata contro contro la baronessa di ferro nei primi anni Ottanta. Non è un evento inglese, è un evento che ha avuto conseguenze globali. Oggi anche il cinema inglese, tipo da Ken Loach ad altri, continua a raccontare quella storia lì, la storia dei minatori in sciopero nei primi anni Ottanta, perché da quella sconfitta che si apre il vaso di Pandora del neoliberismo, con tutte le conseguenze che conosciamo nella nostra vita quotidiana fino ad oggi, quindi la distruzione di un certo tipo di economia, ma anche di convivialità che c'era all'interno delle comunità operaie, questa accelerazione fortissima che il capitale ha imposto e deframmentazione che ha imposto alle vite dei lavoratori, la trasformazione delle economie da economie industriali in economie di servizi e finanza, il fatto che le merci non vengono più prodotte in Europa ma vengono prodotte magari in Asia e da noi non c'è più la produzione ma c'è il trasporto, c'è la logistica, c'è la movimentazione, tutta una serie di cose, tra l'altro Marta spiega bene nel suo libro, mi dispiace che oggi non sia con noi per raccontarcele. E quello che cerco di fare io in realtà è un gioco diverso. Io lavoro con le metafore, come dico nel libro, quindi non mi metto a raccontare i grandi scenari e cerco di trovare dei personaggi che siano dei condensati di esperienze e condenso tutto per dar forza alla narrativa. Devo condensare, io nel mio libro di 135 pagine ho condensato una ventina di anni dalla distruzione, dal tracollo della classe operaia italiana, per cercare di, la classe operaia intendo quella proprio industriale, quella con le mani sporche di grasso, con la tuta blu addosso, per raccontare la nuova classe lavoratrice è fatta di persone che magari hanno pure la laurea e purtroppo non faticano a pensarsi come parte di una classe coesa, perché la loro esperienza è continuamente frammentata. Se la vecchia generazione di lavoratori stava in un mondo dove era molto facile sapere chi era il noi e chi era loro, chi era l'amico e chi era l'avversario, perché l'amico aveva, il compagno aveva la tua stessa tuta, aveva la tua stessa faccia e lavorava al tuo fianco, oggi noi ci ritroviamo a fare tre o quattro lavori diversi, a lavorare anche facendo lo stesso lavoro, avendo tre o quattro contratti diversi mentre facciamo le stesse mansioni, adempiamo le stesse mansioni e magari a farci pure le scarpe a vicenda. Cioè sostanzialmente il capitale è rimasto unito, la classe della lavoratrice è stata frammentata e ci dicono che non esiste più, e intanto tra l'altro di operai, ma vecchia scuola, di quelli con la tuta blu, ne muoiono tre al giorno, quindi insomma da qualche parte devono stare se muoiono, no? E anche i nuovi lavoratori subalterni, magari appunto vengono raccontati, sono costretti intanto a scappare dall'Italia per andare, se vogliono lavorare nel loro campo di studi, devono andarsene in Europa del Nord, e intanto li raccontiamo con la formula per me caricaturale della fuga dei cervelli, perché in realtà emigrano E se c'è qualcuno, e magari perché ha un bagaglio di partenza più avvantaggiato rispetto a altri, che effettivamente ce li raccontano come se fossero tutti start-upari che partono praticamente incalzati da questa, dallo spirito di Steve Jobs di costruire come se fossero imprenditori di se stessi, disperati quelli che arrivano, espatriati e start-upari quelli che partono, ma questi imprenditori di se stessi in realtà poi sono ragazzi che nel fine settimana, quando studiano effettivamente a Londra, poi devono andare per mettere insieme i pezzi delle magre borse che hanno a lavorare a Pizza Hut o a Starbucks, a far caffè o a assemblare pizze surgelate, facendo lavori che so sostanzialmente spesso, per come si fa la pizza in Inghilterra, e io l'ho fatta, e so lavori da catena di montaggio, cioè tu sostanzialmente metti insieme alimenti già congelati, li unisci, li assembli, li metti in un forno. Poi non avevi mai fatto il pizzaiolo, non è un mestiere artigianale, è un mestiere da operaio massa, per come lo fai in Inghilterra. E di qui, diciamo, il tentativo mio di rimettere insieme una storia della classe lavoratrice, cercando di collegare la vecchia tuta blu e i nuovi lavoratori sfruttati. Non importa se i nuovi sfruttati sono laureati, perché working class non si nasce, si diventa. E basta ritrovarsi a lavorare subalterni, senza possibilità di scelta sui tempi, sugli orari, sulle mansioni, senza poter contrattare sul salario, e sei un lavoratore subalterno e sfruttato. E il problema, direi, di questa nuova classe subalterna è che non riesce a esprimere un proprio immaginario. L'immaginario della vecchia era stato forgiato da un lavoro di almeno 150 anni, realizzato da sindacalisti, da filosofi, da politici, da scrittori, da musicisti, che avevano messo insieme un bagaglio simbolico che faceva sì che una canzone, una poesia, un verso, un abito, anche l'abito aveva la sua importanza in realtà, la tuta blu significava qualcosa, era così significativa e l'hanno dovuta trasformare in una tuta grigia per togliergli quella forza comunicativa che aveva. Ecco, la nuova classe lavoratrice manca di una capacità simbolica e di produrre, non ha la forza ancora di esprimere un proprio immaginario. E in Inghilterra c'è una tensione narrativa molto forte a raccontare queste le esperienze della working class, passa non più attraverso il realismo degli anni 50, che era la cifra con cui si scrivevano una serie di romanzi e raccontavano il mondo dei minatori, degli operai, dei ferrovieri britannici. E in realtà questi libri vengono anche tradotti in italiano, però non vengono raccontati come libri working class, perché è un labeling, è un'etichetta che non ha grande pregio di marketing probabilmente oggi come oggi, e vengono raccontati o come libri, per esempio, sul calcio o sul rugby, proprio sul calcio. Ne sono usciti alcuni pregevolissimi per la casa editrice 66 and 2nd. Io dico che sono romanzi sulla working class perché il calcio era un attributo una dimensione in cui certe caratteristiche simboliche della classe operaia inglese si esprimevano, ma non erano romanzi sul calcio, erano romanzi sulla working class del nord dell'Inghilterra, però vengono recensiti, incorniciati anche dal punto di vista proprio del packaging editoriale come libri sul calcio, perché in qualche maniera trovano un indotto pronto a riceverli. E la stessa cosa può accadere per esempio per i romanzi di un Irving Welsh, che vengono etichettati come romanzi sulle subculture e sulle sostanze degli anni 90, quando in realtà i protagonisti dei romanzi di Welsh altro che non sono che i figli degli stivatori del porto di Edimburgo, che dopo il passaggio della tabula rasa della Thatcher, provenienti da quella vecchia aristocrazia operaia, di vecchi operai tutti di un pezzo che avevano tutta una serie di canoni etici ben precisi, sostanzialmente prima di fare lavori di merda passano a pigliare quattrini del welfare, si drogano e se possono, quando c'è il Festival di Edimburgo, viene un quattrinaio dagli Stati Uniti, danno un colpo al capo e si mettono in tasca il portafoglio. E la generazione successiva chiaramente racconta il crollo nell'immaginario, ma anche poi nelle dimensioni esistenziali della società britannica, nel passaggio da quelle trasformazioni del lavoro che hanno completamente devastato le comunità operaie del nord. Quando io arrivo, diciamo, a raccontare la mia esperienza, io sono nato a Piombino e non è una scelta casuale, diciamo, accanto a un posto che faceva un'acciaieria, faceva le rotaie di 108 metri, che erano quelle che hanno armato le ferrovie di mezza Europa, le hanno vendute dall'Inghilterra, in Francia, in Germania, in tutta Italia. Dai 18 dei trenini turistici e minerari fino a 108 metri dei treni a alta velocità. E oggi è tutto fermo. E sembra che in realtà un gigante indiano dell'acciaio abbia finalmente messo le mani sull'alto forno di Piombino per vedere di farlo ripartire in chiave subalterna, cioè in realtà trasformeranno semilavorati. Senti, vogliamo dire due cose sui libri? Allora, innanzitutto, vabbè, avete qui davanti Amianto, una storia operaia che abbiamo pubblicato noi di Edizioni Alegre in una nuova edizione arricchita e accresciuta, e poi 108 metri, uscito da poche settimane con la Terza. Allora, in Amianto tu racconti la storia di tuo padre Renato, operaio, saldatore tubista, che purtroppo muore per colpa dell'amianto, per colpa di una malattia professionale acquisita durante il suo lavoro, e raccontando la sua storia racconti anche questo rapporto generazionale cui accennavi prima, tra vecchi lavoratori sfruttati e nuovi precari sfruttati. In 108 metri invece tu racconti la tua storia da neolaureato, figlio d'operaio, laureato in materie umanistiche, costretto comunque in Italia a lavoretti senza speranze di sbocco verso un'ascesa sociale, e racconti la tua esperienza di cervello in fuga, no? Questo termine usato e abusato, in fuga in Inghilterra, nel Regno Unito, dove hai continuato a fare lavoretti precari, pizzaiolo, lo sturatore di cessi, addetto alle pulizie in un centro commerciale, addetto alla mensa, addetto ai servizi in una mensa scolastica, fino poi dopo al tuo ritorno in Italia, dove ci accoglie questa doppia metafora bellissima e toccante, ma anche tragica a un tempo, in cui trovi spento l'altoforno di Piombino come metafora dello spegnimento graduale di un vecchio mondo operaio, e allo stesso tempo tuo padre che sta per spegnersi. Allora, magari qui semplicemente ti vorrei chiedere di dirci due cose anche sui due libri, anche per vedere poi dopo come tu nel tuo lavoro narrativo concretizzi quest'idea di narrativa working class. Magari leggo anche, vorrei fare anche qualche via via delle letture, quindi due parole e una lettura per renderlo esplicito. Sì, i due libri sono collegati, perché il mio progetto è quello di scrivere una specie di trilogia working class. Quindi Amianto è la storia della vecchia tuta blu, e raccontata dal punto di vista dell'osservatore è un bambino adolescente, figlio, che viene tolto, diciamo, dalla prospettiva della fabbrica, e qui gli dicono: beh, tu non andare in fabbrica, studia. E studiare è diventato un modo per forse sfuggire ai lavori nocivi della fabbrica, è servito a raccontare la storia, non è servito certo a sfuggire alla subalternità di classe. E in 108 metri la prospettiva si ribalta, un po' come nelle serie americane, dove c'è lo spin-off in cui ribalti, il personaggio minore diventa il protagonista. In 108 metri il ragazzino diventa il protagonista, c'è il back, tutto il suo passato, chiaramente gli studi, l'uscita in qualche maniera, quasi il tradimento di abbandonare gli amici che vanno al professionale e vanno in fabbrica per andare a studiare al liceo, laurearsi, e poi in realtà ti laurei e la prima cosa è quando vai al centro per l'impiego, al centro di lavoramento, ti dicono: la laurea la devi nascondere perché qui cercano solo magazzinieri, commesse, facchini, giardinieri, ecco. E quindi a quel punto, dopo un paio di stagioni di sfruttamento nei lavori estivi e nella ristorazione, se ne va a Bristol e trova la, la gloriosa working class inglese, che però è devastata tanto quanto quella è residuale, piena di personaggi caricaturali, uno che chiamano Pavarotti, che è una specie che ha un aspetto aristocratico, ma in realtà stase a mani nude i cessi e le latrine, uno che ha 500 anni e si chiama John Silver, ed è un vecchio pirato dell'isola del tesoro, che è costretto, diciamo, dai tempi lunghi dei pensionamenti, sta ancora a lavorare nelle cucine e cucina soprattutto farmaci da banco e sostanze illegali. E poi incontra un attore shakespeariano lobotomizzato, che è quello colto della banda, e che gli insegna a recitare i sonetti di Shakespeare nel verso metrico elisabettiano, coprendo al tempo stesso il resto del gruppo, che si dedica allo spaccio e a piccoli crimini. Ed è un po' la prospettiva della nuova classe operaia inglese. Io racconterei meglio delle mie parole, forse possono essere direttamente le pagine, mi piacerebbe leggere, continuare a leggere qualcosa, quindi leggo inizierei anche, visto che è il periodo di matrimoni reali, insomma, direttamente da God Save the Queen. Pronunciate queste parole non mi ero mai sentito tanto inglese. Col giuramento formulato al cospetto della regina terminava il mio corso di formazione. Vivevo nel Regno Unito e il seminario di 5 ore mi valse il Food and Health Certificate, titolo nobiliare che in Inghilterra si rilascia per legge a chi, assunto nella ristorazione, manipola o osserva alimenti, sia sguattero o maestro di sala. Del resto correvano tempi infausti, il barometro segnava tempesta, si diffondevano il sospetto e la miseria, il fastidio verso gli stranieri e le passioni tristi, venti carichi di rancore soffiavano e disperdevano come barattoli di latta vuoti che rotolano sull'asfalto, il vittimismo nostalgico verso l'impero coloniale e l'ansia per la minaccia di attacchi terroristici. Dalle cucine di Sua Maestà si annunciava un combattimento all'ultimo sangue, anch'io ero pronto alla pugna, ma le mie fila erano poco patriottiche e alquanto squinternate. Ramingo e plebeo avevo fatto il mio ingresso nella Skank, la Stonebridge Kitchen Assistant Nasty Committee, scritto con la Hay, il sudicio comitato di addetti alle cucine di Stonebridge, la più determinata gang di cuochi manigoldi che si potesse avere la fortuna di incontrare. Congratulations, dicevamo in faccia ai nostri datori di lavoro, avete assunto a paga sindacale minima la miglior teppa atta allo sminestramento della brodaglia nelle mense scolastiche di Sua Maestà la Regina Elisabetta, seconda di questo nome. Oltre al vostro umile narratore a scodellare pastoni in cucina, c'erano un hooligan e un ricettatore, coadiuvati alla bisogna da un ladro di automobili che venne arrestato ancora con il grembiule a fianchi. Tutta gente fra i 20 e i 30 anni, robusti figli senza prospettive della working class britannica, che facevano carambola tra i servizi sociali e i benefit dei piani di assistenza ai disoccupati. Poi c'era Gerard, il mio preferito, che con me, laureato proletario in fuga dai contratti a chiamata italiani, costituiva la parte studiata della banda. Gerard era un attore radiofonico quasi settantenne che idolatrava Shakespeare. Dopo un trauma cerebrale aveva iniziato a lavorare in cucina e si divertiva a spaventare gli studenti. Usava una tecnica teatrale raffinatissima, con il ramaiolo in mano, intento a servire zuppe di fecola di patate addensate come cemento, replicava l'immancabile formula di cortesia dei bravi scolari inglesi con voce da orco. Pleasure, my pleasure, mentre una goccia di sudore scivolava dai cigli folti e cadeva nei vassoi caldi di sbobba con onde circoncentriche. Puzzava come un vecchio capro e indossava da mesi la stessa maglietta, coronata da aloni minerali di sudore e impreziosita dalla sindone del ragù alla bolognese o dall'unto del fritto. È a lui che talvolta tornano i miei pensieri. Un saluto a te, Gerard, grande artista, che conoscevi l'Amleto a memoria, cantavi Rossini e lasciavi sgomenti grandi e piccini. Che team che eravamo, maestri d'ogni arte culinaria, brillavamo per la unauthorized absence, misconduct e incompetence, ma ci facevamo onore anche nel lack of application. Certuni preferivano il theft, vale a dire il latrocinio, ma tutti eccellevano nel fighting e nel serious damage to company property, la distruzione dei beni della ditta. Nel campo dell'immagine aziendale eravamo da copertina, evidenti maestri per disonesti e afflitti da intoxication by means of drink, mentre alle relazioni pubbliche con clienti e fornitori offrivamo tutto il calore della nostra violent, dangerous and intimidating conduct. Che ciurma e teppa, canaglie di tutto il mondo, unitevi, Ross, Jan, Gerard e Fatty Boy, e anche Silver, cuoco e contrabbandiere, oh yo, oh yo, e prima di loro c'era stato Rodrigo, l'aiuto pizzaiolo angolo quadoregno adrenalinico, e Bvayan, la vaceste di Bvistol, insigne mentore nell'arte dello staso a mani nude dei Vespasiani otturati. Tutti eroi working class con cui ho giocato a calcio, ho sfogliato tabloid parapornografici, ho pulito pisciatoie immense, passando da un licenziamento all'altro, inseguito da cupi fantasmi e dai titoli euroscettici del Sun, alla ricerca di un modo onorevole per sopravvivere sotto lo scettro di Sua Maestà. Ho giurato, Dio salvi la regina, e chi entra nel regno pulisca la latrina. Contenta la regina, da qualche parte c'è qualcuno si ricorda di lei. Ma magari per il matrimonio adesso non bisogno di più personale, potresti mandare curriculum, no? Sì. Senti, io ho due o tre aspetti di cui mi piacerebbe discutere, però magari dopo diamo anche un po' di spazio eventualmente alle domande. Inizio da questo aspetto, facendo sempre un parallelo fra i due libri. Quando in Amianto racconti di Renato, che comunque era un operaio specializzato, quindi diverso dagli operai massa che compivano attività meccaniche ripetitive, lui comunque era specializzato in un'attività lavorativa complessa, e racconti che comunque lui viveva una forte identificazione col suo lavoro, con il suo ruolo, quindi comunque lui aveva questa identità da operaio e ancora più in maniera specifica da saldatore tubista, e quindi anche con tutta una serie di simbologie, dalla tuta blu agli attrezzi da lavoro, eccetera. Quindi viveva questa forte identificazione che, diciamo, nonostante lui abbia anche partecipato ad attività sindacali, ha un contraltare da un'ottica della conflittualità, per cui rischia di sfociare in un'idea lavorista, produttivista, per cui comunque, siccome io ho questa identità operaia, continuo a fare l'operaio, mi identifico totalmente, non ho altro al di fuori e quindi, diciamo, mi esaurisco un po' in questa identità. In 108 metri invece tu racconti, in maniera speculare, quasi opposta, di delle tremende, terribili ciurmaglie di sottoproletari, cioè sono davvero sottoproletari nel senso anche sociologico della parola, quindi persone che vengono da bassi fondi, che hanno avuto vite disordinate, che fanno uso di sostanze, che disertano il lavoro, che fanno furti, che vivono anche in maniera provocatoria contro i borghesi o i borghesotti, che insomma insultano, rubacchiano e soprattutto hanno un atteggiamento di sabotaggio nei confronti del lavoro. Ce lo leggevi poco fa, infatti, no? Specializzati nel ladrocinio, eccetera, eccetera, nella distruzione della proprietà aziendale, eccetera. Allora, io vorrei chiederti, da un punto di vista anche magari storico-sociologico, ma anche finalizzato a un'ottica, non voglio dire, diciamo, conflittuale, ma nel senso di rappresentazione narrativa di una classe sociale e delle lotte o delle rivendicazioni o di un'idea di conflittualità verso una controparte padronale. Queste due diverse tipologie di figure, come possono dialogare fra di loro? Tu in 108 metri fai questo racconto molto importante e divertente di tuo padre, che ti elenca 10 leggi, che poi in realtà sono 8, sono 9, sono 11, non si sa quante sono perché qualcuna se la dimentica, insomma, però, e magari poi ce le leggi anche perché sono molto divertenti e importanti, che però sono delle regole universali della classe lavoratrice riconosciute in tutto il mondo, che identificano il rapporto di solidarietà e anche di mutuo soccorso fra appartenenti alla stessa classe, ma anche di conflittualità verso la controparte. Allora, queste leggi magari possono essere, anche dal punto di vista metaforico, un collante fra chi è un proletario in senso classico, chi è un sottoproletario, chi è proletario ma non si riconosce in quella classe perché pensa di essere un precario della cultura. Però dall'altro lato vorrei anche che tu sviscerassi un pochino questa contraddizione tra la figura working class di Renato in senso classico e le figure invece di ciurmaglie sottoproletarie di cui tu parli in 108 metri. Sì, questa è un po' la sfida del libro, cioè, dopo aver letto Amianto anche c'era chi mi incalzava dicendo: ma c'è un approccio molto lavorista, no? Nel senso, ma il mondo è cambiato, occhio. Dice: guarda, io raccontavo l'esperienza di lavoro del mio babbo, cioè che era uno, anche quando faceva lavori nocivi, perlomeno aveva come sfondo questa forte convivialità dei suoi colleghi di lavoro con cui si sentiva, con i suoi compagni di lavoro, non erano colleghi, erano compagni, si sentivano una squadra, erano una cosa molto, erano molto legati da rapporti di amicizia, di vicinanza e così via. L'esperienza lavorativa della generazione successiva, come dicevo prima, è completamente stata centrifugata, è spinta, accelerata, è contraddittoria. Non sai neanche dire che lavoro fai, e questo è il problema, che spesso oggi la gente si identifica in altre questioni, non più nel lavoro. Ti dice magari: ah, io mi sento del nord-est o del sud, e ci sono queste nuove attribuzioni identitarie più su base geografica, oppure semplicemente le persone si identificano come consumatori. Tanta gente si identifica per le marche dei vestiti o degli occhiali che indossa, no? Che è veramente abbastanza inquietante. Quindi nel libro successivo cercavo di raccontarle, diciamo, il passo successivo, quello della generazione a cui io appartengo, ma non solo, perché nel libro ho condensato quasi 20 anni di esperienze in poche pagine, quindi ci sta dentro anche l'esperienza di lavoro di chi magari ha 25 anni, non solo di chi ne ha 40 o 45. E la sfida è quella: raccontare i lavori spesso stupidi, perché tu vai a vedere, oggi vai appunto, cerchi di prendere un aereo e non c'è nessuno che ti fa il check-in, perché non pagano più le persone per fare. C'è una macchina su cui strisce un codice a barre, e al tempo stesso c'hai dei ragazzini che stanno facendo l'alternanza scuola-lavoro, che invece di sta a scuola stanno lì tutti bellini a sorriderti, cioè, sono non pagati per vendere il loro tempo, a farti un sorriso, e poi non c'è nessuno, e se c'è una grana col bagaglio devi passare attraverso un lettore ottico che sostituisce una persona. E quindi l'esperienza del lavoro è ancora più avvilente, perché, cioè, viene sempre più meno la materialità di quello che produci, però anche se non scompare, e molto spesso passi le tue ore a fare lavori noiosi. Io mi ricordo anche quando lavoravo nel centro commerciale di Bristol, in realtà molto spesso non succedeva nulla per ore, però guai a fermarsi, dovevo sempre far vedere che i cleaner, era un pulitore, stavano muovendosi. Oppure facevo questa cosa noiosissima di pulire, praticamente non parlavo niente di inglese, dovevo pulire i tavolini, c'era questa food court, una specie di panopticon, dove circondata da shit burger, questa robaccia qua che friggevano, e la gente mangiava, poi lasciava la roba di avanzi e la roba di plastica e di carta sul tavolino. E noi dovevamo togliere tutto, buttare nella spazzatura e pulire senza parlare mai. Questa era la regola. Cioè, noi non dovevamo parlare, dovevamo solo pulire. E tanto che uno degli approcci, diciamo, interessanti con il supervisor, che era il controllore, c'erano telecamere e sorveglianti umani, e a un certo punto questo supervisor mi fa il complimento, lo racconta nel libro, mi dice: Your English is improving. E io ci casco come un cretino. Penso che mi stia facendo un complimento, vuol dire che finalmente sto imparando l'inglese, e in realtà mi sta dicendo che non devo parlare, che sto parlando, cioè che uso praticamente il tempo di lavoro per imparare, non sono al college a studiare, devo pulire i tavolini e stare zitto, capite? E quindi la noia di questi lavori che durano, immaginate, non succede, cioè solo da pulire un tavolino senza parlare con i tuoi compagni di servaggio, era una cosa avvilente. Mentre invece il mio babbo, quando lavorava con i suoi compagni, le stronzate, cioè, erano delle fucine, erano un alto forno di stronzate in produzione, ma era la dimensione conviviale che ti permetteva, diciamo, di ammortizzare il peso della nocività del lavoro tossico, in qualche maniera. È vero che stavi accanto all'acciaio liquido, però intanto raccontavi stronzate e così via. E io questa cosa l'ho patita. Poi, in realtà, a un certo punto, in questo posto, era un posto stranissimo, dove c'erano tanti, diciamo, io li chiamavo gli eurosfigati, che erano praticamente, perché c'erano linee, anche lì poi c'erano linee di emigrazione molto diverse nel Regno Unito, no? Per cui, che ne so, loro, e il gioco loro era di metterci continuamente gli uni contro gli altri, quindi cioè gli immigrati del Commonwealth, cioè gli indiani, quelli africani dell'ex colonia, avevano delle vie di accesso loro e lavoravano in posti loro. Poi c'erano, il trappolone da evitare sempre sono i ristoranti italiani, dove non andate mai a lavorare, perché cioè, veramente stavi sotto livelli di sfruttamento, cioè, immaginabili in Inghilterra, sono proprio sottrappoli. Stavo un giorno, nel libro sembra ci sto parecchio, ma in realtà è un'esperienza italiana, lo riraccontavo là. In realtà in Inghilterra stavo un giorno in una pizzeria italiana e poi si andava nel centro commerciale attraverso l'agenzia interinale, ma era veramente meglio. E poi c'erano gli Erasmus, che a noi che eravamo invece workers, perché non studiavamo, ci dicevano: beh, voi siete, quelli sono fighetti, voi sì che invece siete in gamba, potete stare a lavorare per noi. Ci mettevano chiaramente, ci prendevano per il culo, ci mettevano gli uni contro gli altri, perché gli Erasmus non accettavano di venire nei cessi, si fermavano a pulire i tavolini. E gli inglesi che lavoravano con me lì erano veramente personaggi da servizi sociali, erano messi veramente malissimo, ecco, erano problematici. E quando invece vado poi nella scuola, nella canteen, nella mensa scolastica, lì è stata un'esperienza interessante, perché sembrava un film veramente di Ken Loach. Però in realtà, diciamo, i personaggi ho conosciuto più che... Avete presente Robert Carlyle, il protagonista del film, di Trainspotting, storico, no? Adesso, ecco... Più che il Carlyle di Riff Raff, io li racconto effettivamente nel libro come il Carlyle di Riff Raff, ma erano il Carlyle di Trainspotting, cioè erano, nel senso, erano pesi, tanto, tanto pesi, veramente. Però c'era anche un senso di insofferenza, di insubordinazione che in Italia non avevo mai esperito, anche perché... quando sono andato io nel 2001, era un periodo di piena occupazione in Inghilterra, quindi se te davi un gancio nei denti al tuo supervisor, poi ti facevi riassumere da quello dall'altro lato. Quindi ho visto delle scene inimmaginabili in Italia, dove la gente è molto più disciplinata al lavoro. Poi avevano, nonostante diciamo una bassissima sensibilità politica, c'era molto forte questo senso di noi e loro, dove noi eravamo... noi quelli col pugno di ferro e 150, la capacità di assorbire 150 pinte in un giorno, e loro erano quelli che io non capivo, mi facevano, e cioè, quelli che tirano, no, quelli ho la puzza sotto il naso, erano l'avversario di Lasse, capito? Però lì io stavo, ogni volta mi facevano, questo è uno un po', erano... quelli ho la puzza sotto il naso, erano i nostri, e io sono diventati quattrinai nella rappresentazione un po' che ne faccio io. E era interessante anche la maniera, vedevi il classismo, questa cosa delle scuole. La scuola è una specie di, che posso dire, è una cartina al tornasole della società, no? Tu quando vai lavorando nella mensa scolastica, era un'esperienza sociologica impressionante, perché la mattina si partiva al turno di mattina e arrivavano tutti conci, con l'occhio nero dei cazzotti del giorno prima, e l'altro raccontava lots of fighting, cioè raccontava la notte, aveva passato la notte a fa cazzotti, capito? Di prima mattina, cioè, l'attore shakespeariano delirava di sonetti di Shakespeare, era una situazione terribile. Chi rollava le prime canne già alle 6:30, era una roba atroce. E poi arrivavano sti studentelli, prima a scuola upper class, middle upper class, e arrivavano tutti questi qui con le uniformine di là, e c'era il professore, che era il professore di inglese, come te lo raccontano nei libri, nei sussidiari di inglese della nostra scuola, no? Cioè quello vestito in tweed, capito, no? Tutto la modina, con questo bell'inglese, e dovevano tutti dirci, pena, se no magari la nota, non so, dovevano dirci sempre thank you, ogni volta a noi si versava la merda liofilizzata del purè. E il vecchio attore shakespeariano ci metteva anche l'unghia listata di sudicio, no? A lutto dentro, così, o la goccia di sudore, e loro, thank you, e noi, you welcome, e la cosa non finiva, e si diceva 800 volte in un giorno, no? Nel senso, you were due palle infinite. Poi finita la scuola up middle class, veniva la scuola working class, e il professore non era quel simpatico signore con la bella inglese comprensibile, ma era praticamente un tizio con la tuta sportiva, o con la maglietta della squadra del cuore, con un collo taurino in questa maniera, che urlava a un sergente di Full Metal Jacket, gli urlavano in una maniera impressionante, cioè questi bimbi a scuola venivano urlati, i bimbi delle scuole working class, e poi quando venivano e te lo dicevano thank you, perché il professore sennò li stroncava, però ti dicevano thank you dicendoti pezzo di merda, con l'occhio mi diceva ti aspetto fuori, e i miei colleghi li guardavano, diciamo, you welcome, provaci testa di azzo, e si vede, no? Più o meno, questo era il sottinteso della mensa. Poi c'era il terzo step, era la scuola all black di ragazzi definiti problematici, che in realtà erano tutti black, abbastanza obesi, con i professori sembrano, cioè fonte 5 studenti black, 5 professori di contenzione che sembrano pugili falliti, che però erano tutti in buona onda, no? Nel senso, erano clienti, poi in realtà del mio socio era quello che spacciava, di quello che mi ha smesso, e che poi venne arrestato tra l'altro dalla polizia. Io dico che casco la testa sul ragù, in realtà sul purè, in realtà lo aspettavano la polizia, l'aspettava fuori, non ti avrebbero mai arrestato davanti ai ragazzetti, come racconto io. E quindi sì, era uno scenario un po', diciamo, da film di Ken Loach e da romanzo di Welsh, in cui mi sono ritrovato dentro cercando di portare il contributo. Cioè non ho cercato di fare un romanzo working class inglese, ho cercato di farlo da una prospettiva italiana, e penso che i romanzi working class inglese non possano raccontarla in questa maniera, perché c'è proprio la prospettiva della nuova immigrazione, c'è anche un certo gusto di rovesciamento dei registi alto-basso. Io faccio il verso ai fighetti, no? Nel senso, però metto anche la proprietà dei linguaggi di quelli in bocca a questi personaggi devastanti. Il risultato è una sorta di umorismo di contrasto che a volte funziona. Non so se devo leggere. Leggici le 10 regole, poi ti faccio un'altra domanda. Ora quelle non le trovo bene, poi vediamo, perché non mi ricordo dove. Le stavo cercando anch'io prima. Trovate? Sì, in realtà questa cosa delle regole, diciamo che in qualche maniera valeva anche in Inghilterra, ma non... No, se no leggerei... Tra l'altro c'è anche una parte come posso dire, un po' weird, una parte un po' di... Cioè questo fosse, diciamo, c'è il fantasma della Lady di Ferro che perseguita il protagonista. E questo è un altro aspetto significativo, perché c'è un legame diretto fra quello e noi, anche come studenti, come lavoratori della cultura costretti a fare 3 lavoretti, a mettere insieme una traduzione con un'esperienza di lavoro manuale. L'hai trovato? Sì. Sì, vabbè. Sì, che poi, gabbano tanto, io non ho sempre trovato una cosa così, erano scontate le regole. Vabbè. Sono regole che valgono in qualsiasi cantiere. Il babbo che prima del viaggio, il mentore, il vecchio, dice mi raccomando te vai là. No, anzi, no, è quando il figlio dice babbo voglio fare il liceo perché la maestra mi ha detto che devo studiare. Il vecchio dice bimbo te fai il liceo, ma io ti dico questi sono mandamenti. Vai al liceo, però occhio che te non diventa come quelli lì. Quindi le regole sono queste. Da una mano a tu soci, sciopera, non le calcula al capo, non fa il crumiro, non ferì se ti tocca menà. Non prendertela troppo con Pisani, sono umani anche loro. A Livorno mi hanno detto, no, sono animali come noi. Mi hanno detto, ma non è che sono umani anche loro. Cioè, effettivamente, nel prossimo libro la modifico. Diffida dei quattrinai. Se uno studiato, questo capita, nel libro continuamente questo capita, se uno studiato ti chiama signore, mettiti col culo al muro. Più una, due massime, ora non mi ricordo. E poi vabbè, continuo. Questa dell'uno studiato ti chiama signore, in realtà l'ho esperita direttamente in Inghilterra, quando la stessa supervisor che mi disse your English is improving, licenziò un mio collega che mi stava molto simpatico, uno più grande. In questo viaggio in realtà trovi nemici e trovi avversari, no? Tipo il drago di alluminio e cristallo del centro commerciale, il fantasma della traccia, ma trovi anche dei delle spalle degli amici, no? E c'era tra le spalle uno che mi stava simpatico, che poi non figura come personaggio, ma che è centrifugato in una serie di personaggi. E quando questo venne licenziato, gli dissero "this gentleman", era un cleaner, capito? "This gentleman", che gentleman non la usi a caso in Inghilterra, è una parola pesante. Questo gentleman ha bisogno di una vacanza, capite l'umorismo inglese come funziona, no? E quindi io dissi: qui quando ti chiamano quando ti chiamano signore, mettiti col culo a muro, perché ti stanno per fregare. E questo è il comandamento operaio. In realtà poi la genesi passa attraverso un'esperienza inglese, anche se viene raccontata nell'infanzia del protagonista. Allora senti, ultima questione che ti pongo, e poi dopo se qualcuno vuole fare qualche domanda. Allora, nel tuo lunghissimo articolo in cui su Giappi, blog di Wuming, parli della narrativa working class, espliciti la questione per cui, siccome il romanzo nasce come forma letteraria di autorappresentazione della borghesia, tu cerchi tutta una serie di tecniche narrative letterarie per smontarlo e rovesciarlo, per farlo diventare rappresentazione di un'altra classe sociale, e fra queste parli anche dell'ibridazione. Noi come casa editrice Alegre stiamo puntando molto su questo aspetto formale e contenutistico. Abbiamo una collana che si chiama Quinto Tipo, diretta da Wuming 1, in cui è uscito un altro tuo libro, PCSP, che è una collana di ibridi narrativi, e in cui per esempio c'è un romanzo working class che è Diario di Zona di Luigi Chiarella, che racconta la sua esperienza lavorativa, non mi dilungo, lo trovate al banchetto se vi incuriosisce. E abbiamo anche pubblicato un altro romanzo, un altro libro ibrido, qui si accennava prima, che è Meccanoscritto, in cui degli operai degli anni 50 e degli operai di oggi prendono parola tramite una serie di racconti. E tu sostieni che questa cosa dell'ibridazione è uno degli strumenti con cui la working class può raccontarsi, sovvertendo anche il genere del romanzo, ibridandolo con altri tipi di scritture. Dall'inchiesta operaia al reportage, all'articolo di giornale, al memoir, alla biografia, all'autobiografia, la memorialistica, l'epica, il tragico, il comico, eccetera. Tu fai un lavoro molto forte anche dal punto di vista formale e stilistico, non solo con l'ibridazione, ma anche con tutta una serie di questioni. Quella che più salta all'occhio nel libro, perché viene esplicitata, è quella delle metafore, delle figure retoriche, delle immagini, per cui tu, no, hai studiato, impari a usare le metafore. La tua cassetta degli attrezzi è la lingua, quindi tramite le immagini, tramite le metafore, le allegorie, i paragoni, racconti, descrivi, indaghi il reale. E un altro aspetto a cui accennavi, sul quale leggendo il tuo libro mi sono interrogato molto, è il rovesciamento alto-basso, no? Quindi parte dalla questione per cui tu nel sottotitolo dici "The New Working Class Hero", quindi un eroe working class, che però non è l'eroe epico o l'eroe tragico, è un eroe straccione, un eroe rovesciato, sono personaggi che puzzano, sudano, afferiscono a una classe sociale bassa. Allo stesso modo tu anche quando giochi col linguaggio, quando racconti il loro carattere provocatorio, strafottente, effettui un continuo rovesciamento dell'alto verso il basso e del basso verso l'alto. Quindi sono tutti accorgimenti retorici, tecnici, stilistici che tu usi come strumenti, no? Così come un operaio classico usa una chiave inglese per svitare, una leva per sollevare, un piede di porco per scardinare, tu usi degli accorgimenti narrativi stilistici per raccontare. E mi interessava anche parlare di questi aspetti qui, formali, stilistici, contenutistici del libro. Sì, vabbè, è chiaro che, insomma, è una delle prime cose che si studia all'università. Il romanzo è, diciamo, lo strumento con cui la borghesia si è forgiata un proprio immaginario, ed è uno strumento potentissimo, estremamente elastico per raccontare. È estremamente elastico, questo fa sì che in realtà un romanzo voglia dire tante cose diverse in momenti diversi, ecco, anche in periodi diversi. Quello che ho cercato di fare è di depistarlo in qualche maniera. Ovviamente è una tendenza molto forte degli ultimi anni, quello di spingere il romanzo verso la saggistica e di ibridare narrativa e saggistica. Avevamo degli strumenti, avevamo l'inchiesta operaia, per esempio, che è un modo con cui classe operaia e intellettuale negli anni 60, nel periodo dell'operaismo italiano, si sono incrociati, hanno cercato di far inchiesta facendo parlare gli operai, non dando loro la voce, ma cioè, nel senso, facendo qualcosa di più, proprio dicendo loro parlate, e poi chiaramente ibridando questi la loro voce o le riflessioni teoriche della ricerca sociologica. E il memoir è una forma molto semplice di scrittura perché io ho iniziato a scrivere in quel modo. Il mio primo tentativo di scrittura comincia con un racconto in cui, diciamo, sfogavo, cioè facevo un turno in pizzeria e la sera facevo la parodia in chiave caricaturale delle esperienze che mi ero vissuto. E questo periodo di lavoro, tra l'altro, che percepivo come estremamente pesante e subalterno, perché nei lavori stagionali in cui non hai giorno libero, lavori tutti i giorni col doppio turno, pranzo e cena e così via, e questa cosa mi dava la possibilità di. La scrittura era una forma, un atto di sabotaggio, ecco, per me. Era un modo per rovesciare la subalternità che il mio corpo fisicamente proprio provava. Cioè, io tornavo a casa, mi toglievo i cascioli di farina facendo pizzaiolo dagli avambracci e poi mi mettevo a raccontare la storia dal mio punto di vista. E questo l'ho fatto anche in Inghilterra e così via. Quindi questo rovesciamento alto-basso sicuramente c'era. Poi ci sono tanti altri modi di scrivere. Io quello che cerco di fare è scrivere con i piedi dentro la mia esperienza. E quindi non devo fingere tanto. Cioè, posso mettere insieme due o tre personaggi per farne uno, spingo verso la deformazione caricaturale, il grottesco, e questa spinta delle volte diventa umoristica. Cerco continuamente di perseguire uno scopo umoristico perché vedo nell'ironia una forza sovversiva e tento di dare una carica sovversiva alle mie storie, perché penso che la scrittura non serva solo a raccontare il mondo, ma a farlo saltare in aria. Cerco anche ottimisticamente di contribuire in piccolo alla costruzione di un nuovo immaginario, perché c'è bisogno di un immaginario, perché l'immaginario è quello che ti fa vincere le battaglie. Quando vai in battaglia e sei sconfitto dentro il tuo immaginario, hai già perso. E quello che succede negli ultimi anni alla sinistra, ai movimenti e così via, e alle classi. E detto questo, chiaramente da solo faccio poco, però uno dei messaggi. Cioè, il libro è anche un messaggio nella frammentazione delle esperienze lavorative che viviamo verso un'idea di solidarietà. Il libro finisce con una frase che ora magari la leggo prima di lasciare le parole a due domande. Il libro finisce con un inno calcistico, no? Traslitterato però in senso narrativo, che è You'll never walk alone, tu mai camminerai da solo. Cioè, ma lo intendo nel senso, troviamoci i nostri compagni. Ecco, lo leggo. Il libro si chiude come una sorta di epica stracciona con un saluto dopo il rientro dell'eroe. Eroe, tra virgolette, l'eroe non è il vecchio eroe tutto d'un pezzo, identitario, muscolare, stacanovista. È uno sfigato che incontra altri sfigati. Io non credo in realtà agli eroi. Ma l'eroe working class, come si coniuga in Inghilterra, è uno che esce dal mondo proletario, sfiora la gloria e poi finisce ubriaco in un pub a 40 anni. Ecco, quello è l'eroe working class, per capirci. Oppure, nel migliore dei casi, non è, a volte mi capita un'intervista, ma sei te? No, l'eroe è something to be, direbbe John Lennon. È un dover essere, ma non è quel che è. Ecco. E ne saluto un paio di eroi working class che mi sono state spalle in questa vicenda. Uno è Ross. Prima di leggere la storia, devo precisare un dettaglio. Ross, a 16 anni, mentre faceva il manovale, l'avevano, quei bastardi dei suoi colleghi, l'avevano legato ai tubi innocenti e l'avevano lasciato a ciondola per 3 ore praticamente con le gambe così. E lui diceva, ma avevano un crocifisso. Se non preciso questa storia, che spiego nelle pagine anteriori, non capite quello che leggo. E poi, vabbè, dopo licenziamento, perché ci licenziano tutti, era andato a lavorare in una specie di bettotrofio per bambini disabili con problemi psichici, un postaccio pesantissimo, però lui se la cavava bene. Se la va bene perché Bob Ross rimane sul pezzo, è un fottuto fighter che incassa le botte della vita e va incontro ai guai col vento in poppa. Se un giorno spacca tutto nella baracca, prima o poi apre la porta, rimette a posto la fotografia di Eric Cantona e riparte. Vi sembra un lavoraccio il suo? Per uno che è stato crocifisso in un cantiere edile ed è rimasto appeso per 3 ore sui tubi innocenti, quel posto di lavoro è una passeggiata. I ragazzi lo adorano e lui va sempre avanti come un giocatore fangoso di rugby che non passa mai la palla indietro, il vecchio Ross. Un saluto a te, eroe working class, dalla lontana Italia che mai vedrai, perché a te non interessano le umide alli o le cinque terre o gli ermi holly. A te, Ross, siano consacrate le pinte e lo sgobbo, i ganci al mento e gli occhi pesti e la generosità d'animo di un cuore grande come l'Old Trafford. E se ti crocifiggono di nuovo, perdonali, se vuoi, perché non sanno quel che fanno, ma non porgere l'altra guancia e reagisci con un destro d'incontro. Poi urla dall'impalcatura, con orgoglio, in faccia al mondo e ti attende come un profeta che un torto a uno è un torto a tutti. Eri un amico, Ross, e non c'è giorno che io non ti veda nei miei pensieri camminare nella pioggia col giubbotto sportivo, a testa alta, in attesa del vento favorevole per navigare nella vita alla fine della tempesta. E grazie per quel televisore, mi regalò un televisore, ma tanto li rubava, sempre, a cui ho rubato una parte del mio inglese, con cui oggi mi guadagno il pane accottimate di parole tradotte e ribaltate. Infine Gerard, mio eroe plebeo, che negli anni della vecchiaia ancora correvi a porgere ossequi alla florida beltà delle studentesse britanniche. Tu che al verso elisabettiano e alla metrica dei padri antichi offrivi nuovi omaggi, mentre gocce di sudore scendevano nelle brodose scodelle e nell'unta tua t-shirt aziendale. Gerard, sei stato il vecchio saggio che sminestrava piatti e porgeva consigli nell'ora della prova. Il profeta che ci esortava a camminare sulla testa dei re, mentre il padrone e il birro assediavano le nostre baracche. A tutti voi, miei compagni britannici, devo un pezzo di quest'epica stracciona che da bardo errante ho raccontato a un pubblico inclito nella mia lingua madre, dopo avervi insegnato alcune metafore ingiuriose. Miei sodali, miei fottuti compagni di lavoro, ci sarà sempre un giro di pinte che ci aspetta nel nostro vecchio pub e un campo di calcio fangoso in cui rotolarsi dopo un'entrata sporca in scivolata. Cadrò a terra, senza ossessioni e timori, perché ci sarà sempre per me, nelle verdi colline d'Inghilterra, una mano operaia pronta a rimettermi in piedi. E quando mi troverò nel fango, triste come un alto forno spento, con le dita attaccate agli inguini strizzati, o senza fiato, per una pallonata della vita nello stomaco, con i miei sogni sconvolti o crollati nel vento e nella pioggia, saprò che mi tenderete una mano per dirmi «Tranquillo, è il mestiere che entra». Saprò che mai camminerò da solo. You'll never walk alone. Sì, giusto, purtroppo devo andare a fare un reading da un'altra parte, quindi ho 10 minuti massimo per un paio di domande. Abbiamo tempo giusto per un paio di domande, se ci sono. Se no poi ritorno dopo scena. Eccola là. Sì. No, perché abbiamo il podcast, quindi registriamo anche la domanda. No, ti volevo chiedere se dall'indagine, insomma, un po' che hai compiuto, un po' che mi pare di aver capito è in corso, sono emerse delle riflessioni o nel libro o in te su invece l'evoluzione dei sindacati, insomma, di tutte quelle realtà che una volta appunto che uno della working class si rende conto di essere vittima di un lavoro che è uno sfruttamento, un'ingiustizia, magari può fare riferimento, insomma, quelle realtà di protezione della working class si sono cambiate dalla generazione del tuo babbo a te e oggi, insomma. In Italia o in Inghilterra? Perché non lo so, penso sia importante. La mia esperienza è sono più consapevole in Italia, ti direi, che in Inghilterra. Nei romanzi inglesi degli anni 50, quando un padrone rompeva coglioni, il personaggio tirava fuori la tessera del sindacato e la faceva vedere un pezzettino così, e quell'altro subito tornava più miti consigli. E c'è una scena meravigliosa da film in un romanzo di Colla di Wim Wesh, in cui racconta, prima di raccontare le scene abiette dei protagonisti del libro, racconta per un pezzetto i loro genitori nelle prime 20-30 pagine, e c'è questa scena bellissima in cui c'è questo tizio che se ne sta, fa un lavoro in una seriale da operaio massa, no? Di quelli proprio un pezzo in culo come nel film con Gian Maria Volonté, e a un certo punto va dal capo, dallo sgherro del capo, e gli dice: capo, io me nato il figliolo, devo andare all'ospedale, questo gli dice la porta è lì ma non torna più, altrimenti torna al pezzo, e lui torna al pezzo, non sa come fare, poi vede quello del sindacato e gli fa ma me ne ho il figliolo, che devo fare, io vorrei andare via, e quello del sindacato gli fa figliolo, pigliati un taxi, vai e metti il conto metti il prezzo sul conto dell'azienda. Fa ma come, ma il capo mi ha detto un po' andare, ci parlo io col capo, non ti preoccupare. E c'è questa immagine che lui è bravissimo a renderla visiva, dove vedi praticamente questo che se ne va un po' dubbioso, e il sindacalista che entra nell'ufficio del capo, e il neon che comincia a ballare perché praticamente parte la raffica di legnate, no? Ecco, quel sindacato là, glorioso inglese, credo che non esista più, anche se poi in realtà attorno al labor di oggi ci sono delle situazioni che andrebbero viste con più attenzione, tipo Momentum e così via, però a livello sindacale non so quanto sia rimasto, e il tipo di lavoro che facevo io ovviamente non mi permetteva di approfondire granché questa dimensione, e la situazione sindacale italiana bene o male la conosciamo, è quella in cui vive un po' tutta la sinistra oggi, cioè più fare il CAF o voglio dire che altro, insomma, e quindi è una situazione estremamente problematica, e c'è il grosso problema di intercettare, diciamo il capitale è stato veloce e il sindacato fatica a seguirlo, perché chiaramente c'è il grosso problema di sindacalizzare gli insindacalizzabili, che era quello che facevano i sindacati di base, tipo l'IWW ai primi del Novecento negli Stati Uniti, solo che gli insindacabili siamo noi in qualche maniera, paradossalmente, con i tipi di contratti che abbiamo, e questa dovrebbe essere una sfida per il sindacato del futuro, ma quello del presente fatica ancora a coglierla, ecco. Io paradossalmente, da figlio di un operaio, cioè il grande dogma non sciopera, o lavoro in nero quando faccio lavori manuali, quando faccio lavori in agricoltura, oppure so praticamente dovrei essere al tempo stesso, cioè lavora cottimo come mio nonno, ma con i byte e facendo traduttore, il padrone non so io, al tempo stesso io e non c'è, capito? È questa dimensione pazzesca, per cui sì, ho fatto lo sciopero social astenendomi dal lavoro quando ci fu lo sciopero social, però ecco, quindi il grande problema del dogma è chiaramente che diciamo i comandamenti operai vanno anche riattualizzati, non basta recitarli, se no è la liturgia e basta, ecco. Domanda, eccola. Allora, una delle cose più interessanti del libro è appunto perché si tiene continuamente in bilico tra il romanzo, il report, l'inchiesta, ha aspetti umoristici, nasconde dietro il dramma, il linguaggio è un linguaggio estremamente eclettico. A proposito del linguaggio, viene utilizzato vernacolo toscano, inglese da documento ufficiale, inglese da tutti i giorni, linguaggio altamente letterario. Per quello che riguarda l'inglese, non può, pensavo, il fatto di parlare in una lingua che non è la lingua del lettore forte, del lettore standard di una certa età, non può essere una sorta di tornaconto, una piccola vendetta contro quello che è il borghese che normalmente si approccia alla lettura. Un'altra questione è se può spendere due parole su un episodio che ho trovato importantissimo, che è quello dell'imparare con le castagne in tasca, che credo sia una delle lezioni più importanti che vengono data all'interno del libro. Grazie. Parto dalla seconda perché mi sta tantissimo a cuore, è una cosa che considero fortissima, questa cosa dello studiare e imparare con le castagne in tasca, in realtà è una metafora amiatina, ecco, io a parte sono passato un periodo bellissimo nell'82, mio babbo era andato a lavorare su Monte Amiata costruendo un impianto di alcune, diciamo, per conto dell'ENI, un progetto, una storia pazzesca. E in quel periodo in montagna per me è stato molto forte, ecco. In seguito, da adolescente, ho conosciuto questo personaggio che era un intellettuale di riferimento della sinistra degli anni Ottanta, che si chiamava Balducci, era un prete comunista, che non sembrava assolutamente un prete, era un colosso, un energumeno, e io me lo immaginavo come uno ascetico, perché immaginavo un prete comunista deve essere uno che non mangia neanche, invece praticamente venne al liceo dove stavo io e fece una conferenza e poi ci invitarono un gruppetto di studenti a venire al ristorante a mangiare con lui, e questo praticamente mangiava, cioè pigliava calamari, cioè, metteva in bocca, si sbrodolava, era un brutalissimo, no? E io rimasi un attimo frastornato, perché era veramente eccessivamente brutale, no? Nel rapporto col cibo. E poi quando, dopo qualche anno, lui morì in un incidente stradale, lessi una biografia dove praticamente c'era scritto che questo, da figlio dei minatori, aveva praticamente, gli davano il pane di castagna, lo chiamavano, il pane di castagna era, la mamma ti bolliva la mattina, cioè te dovevi andare a rubare le castagne, che c'era un proprietario dei boschi, andavi a rubare le castagne, se non le rubavi te le davano, se ti facevi pigliare te le dava il proprietario della cosa, però bambini era tollerata, non li menavano, tornavi con le castagne, la mamma te le bolliva e ti dava le castagne in tasca e ti mandava a scuola a piedi, magari in mezzo alla neve senza neanche le scarpe, perché la situazione era quella. E questa era la condizione in cui Stomo si era fatto una cultura, era diventato un intellettuale praticamente con le castagne in tasca e senza le scarpe. La sera, quando il suo babbo tornava dalla miniera, lui stava alla finestra, vedeva le lampade dei minatori che segnavano il rientro a casa con l'acetilene, e a quel punto la mamma buttava la pasta per fare il brodo. Era l'unico pasto che facevano praticamente nel dopoguerra, fino agli anni 40, a casa. E quando ho letto questo episodio, ho capito la fame di quest'uomo, che praticamente mangiava con avidità, per cui chiaramente un borghese poteva avere le buone maniere, ma lui no, perché c'aveva una fame atavica proprio in corpo, no? E questa fame non era solo fame di cibo, ma era fame di libri, di letture, di interpretare la realtà. Io dicevo, bisogna studiare con la stessa fame di quel figliolo di minatori, che chiaramente i libri li mangiava, non li leggeva. E per me fu una lezione proprio più bella che ho potuto avere da ragazzetto, conoscere quest'uomo, che poi era veramente un gigantesco, orecchie enormi, mani bestiali. Io a quei tempi ero veramente da insufficienza toracica, ero magrissimo, e questo era un gigante. E infatti a un certo punto cerco anche di tirare dei ponti fra la mia esperienza di migrante, oggi direbbero cervello in fuga, expat direbbero gli inglesi, col cavolo, in realtà si era immigrati anche sfigati noi. Ecco, e gli immigrati di oggi, il libro ha una dedica a un facchino morto durante un picchetto, e penso anche, a volte mi capita di insegnare italiano a giovani lavoratori stranieri, e a volte, cioè, io spero che anche loro abbiano da qualche parte, alcuni di loro abbiano queste castagne in tasca, perché le castagne in tasca sono la speranza di nutrirti di poco, ma però sfamano e ti permettono di fare un'esperienza forte, con la speranza di cambiare il mondo, tenendosi appunto queste benedette castagne in tasca. Riguardo la questione del linguaggio, ci ho lavorato tantissimo sul tema del linguaggio, perché il linguaggio, chiaramente il tema della lingua era fondamentale. Io sono arrivato, io ho fatto l'università molto velocemente, perché secondo i miei genitori mi mantenevano, non ci capivano nulla, cioè te ti laureavi, pigliavi un foglio e iniziavi a lavorare il giorno dopo, no? Poi io lavoravo e studiavo insieme, ma in realtà ho capito poi a un certo punto, laureato, non ci avrei fatto nulla, ecco. E non potevo fare neanche quelle cose costose all'estero, di master, di specializzazioni. Quando a un certo punto ho deciso di andare in Inghilterra, che tanto se dovevo fare lavori di merda in Italia, tanto vale li facevo in Inghilterra, almeno imparavo una lingua, il mio scopo era quello di imparare una lingua straniera. A 27 anni non parlavo l'inglese. E buffo, ho detto ora che lavoro come traduttore dall'inglese e dallo spagnolo, perché poi ho continuato, però l'ho imparato l'inglese nei cessi, e ho imparato le lingue straniere lavorando. Ed è stata una conquista, perché c'avevo i supervisor che mi dicevano your English is improving, e si mettevano di traverso a questo processo di... Quando parlo dell'Isola del Tesoro, era il mio romanzo per ragazzini di cui ero innamorato quando avevo 7, 8, 9 anni. Per me l'Isola del Tesoro era la Gran Bretagna, ma il tesoro non erano quattrini, perché col salario minimo, al minimum wage, non te li fai. Il tesoro era il linguaggio, io lo dico anche da qualche parte alla fine del libro, il tesoro di Silver, non sono quattrini, è la lingua. E il problema della lingua è chi la parla e che uso se ne fa, chi ha le mani e il potere sulla lingua. Perché la grande problema, anche Gramsci ci dice, dietro ogni volta che si pone il problema della lingua c'è il problema di società dominanti e chi, quindi di società subalterni. Quindi il problema della lingua è il problema fondamentale. Quando io prendo un personaggio come Silver, lo cavo fuori dal romanzo di Stevenson, ma anche da uno spin-off bellissimo aveva fatto quello scrittore svedese, e lo metto nel mio e lo faccio lavorare nelle cucine, mi invento per lui una lingua, è una lingua ibrida dove mescolo inglese, spagnolo, italiano e un po' di francese e così via. Però da una parte è un omaggio al Salvatore del Nome della Rosa, che quando ero un ragazzetto era un altro personaggio che mi piaceva un casino, però è, e ci ritorna Eco, è un riferimento al tema della lingua perfetta di Umberto Eco. Cioè Umberto Eco a un certo punto ragiona sul tema dell'esperanto e dice bisogna capire qual è la lingua perfetta, la lingua. E la mia interpretazione è che la lingua perfetta non è la lingua del purismo dell'accademia, quella isolata, sintetica, universitaria, accademia, così, è la lingua ibrida dei migranti, cioè quella specie di slang di Euro English che forse si parla oggi o di Spanglish che si parla nelle cucine. E sì, è un omaggio a quella lingua perfetta. La lingua perfetta non è quella di Cambridge o dei fighetti che parlano l'inglese della regina, ma è lo Spanglish di Silver. Ecco. Va bene, dobbiamo chiudere. Grazie Alberto, grazie alla polveriera. Grazie a tutti voi e tutte voi che siete venuti a sentirci. Restate con noi perché adesso ci sarà la presentazione di Mutualismo, Ritorno al futuro per la sinistra, di Salvatore Cannavò, edito dalle Edizioni Alegre, che presenterà il libro insieme a Francesco Valente di Mondeggi. Grazie.